24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Nicola Grattere, 57 anni, calabrese magistrato, impegnato in prima linea nella lotta all'Ndrangheta, vive sotto scorta da 25 anni, procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria e uno dei magistrati più conosciuti della DDA. A rischio continuo di vita, dice: io parlo spesso con la morte, mi rendo perfettamente conto del rischio che corro. Per evitarlo non fa 10 metri senza l'auto blindata, non va al cinema da più di 20 anni, cambia strada continuamente, vive a 8 km dal mare ma non fa il bagno, se può al massimo coltiva l'orto, scrive libri e parla molto con i giovani. A loro dice: bisogna cambiare tutto finché non sia più conveniente delinquere. Lo dice e lo crede. Nel suo ultimo libro, Oro Bianco, scritto con Antonio Nicaso, uno dei più grandi esperti di 'Ndrangheta, racconta la vittoria dell''Ndrangheta sul mercato mondiale della coca. Renzi lo voleva ministro di giustizia, ma all'ultimo momento è cambiato tutto. Allora, dottor Gratteri, è vero che fino a un quarto d'ora prima lei era ministro? Sì. È stato Napolitano a non volerla? Lo chiede a lui. Ma per accettare aveva posto la condizione di avere carta bianca sulla riforma della giustizia? Sì, Renzi aveva detto sì. Ma l'avrebbe fatto volentieri il ministro? Volentieri, era una cosa impegnativa, però il sogno di fare una rivoluzione, di far funzionare il sistema giudiziario, mi sarebbe piaciuto. Il governo poi l'ha nominata presidente della commissione per elaborare la proposta di legge per la lotta alla criminalità. Lavoro concluso? Il lavoro è stato depositato ai primi di gennaio. Ecco, e il suo lavoro è stato recepito dalla proposta Orlando di riforma della giustizia? Ci siamo incontrati 3-4 volte, ancora piccole cose, il grosso è fermo. Il grosso è fermo. E di che cosa è più soddisfatto del risultato del lavoro non ancora recepito? Ma noi ci siamo dati della regola: abbattere i tempi del processo, e applicare l'informatizzazione al processo penale, non rendere conveniente delinquere e soprattutto non abbassare il livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato. Qualsiasi modifica noi andavamo a fare. Orlando è bravo come ministro, no? Ma è una persona normale, per bene. La riforma della giustizia andrà in aula subito, secondo lei? No, io vedo il Parlamento, a me pare un lavandino otturato. Ci sono sullo stesso tema 3, 4, 5 proposte e quindi c'è molto traffico. Ci vuole un buon bravo vigile urbano all'incrocio. E Orlando è quel vigile urbano o no? No, dovrebbe essere il Presidente del Senato o della Camera a dare priorità o meno a chi ha l'agenda. Senta, l'Europa ha chiesto certezza sui tempi della giustizia civile accusandoci di inefficienze gravi. Con la sua proposta si supererebbero? Sì, perché noi abbattiamo tantissimo i tempi del processo, ma l'Europa di certo non può dare lezione all'Italia. Perché? Perché l'Europa è un encefalogramma piatto da questo punto di vista. L'Europa è una comunità economica, punto. Non si interessa assolutamente di sicurezza o di giustizia. Sono all'anno zero nella lotta alle mafie. Dovrebbero copiare il sistema giudiziario italiano e migliorarlo, ma di certo non dobbiamo prendere lezione dall'Europa. Senta, sulla riforma della prescrizione siamo arrivati all'accordo, secondo lei? No, ci sono 3-4 proposte, sembra un elastico, ogni giorno c'è una... Quindi non si è deciso quanto è lunga questa prescrizione? No. Noi ad esempio la nostra proposta era previsto che la prescrizione decorreva dalla condanna in primo grado. Senta, dottor Gratteri, lei è il numero uno nella lotta all''Ndrangheta, lo riconoscono tutti, e agli interessi dell''Ndrangheta, e ha detto: non c'è coraggio senza paura. Cosa vuol dire? Perché noi dobbiamo non sottovalutare il fenomeno, non sottovalutare chi abbiamo di fronte. Senta, ma quanta ne ha avuta di paura lei? Quanta ne ha? Ma quando sento la paura diventa la lingua amara. Senta, la scorsa settimana in collaborazione con gli americani dell'FBI si è conclusa un'operazione Bridge contro l''Ndrangheta, una portata importante. Sì, è importante perché era dalla Pizza Connection che non si facevano indagini con gli americani, sia con Bridge l'anno scorso, sia quest'anno con la Columbus. Ne faremo ancora altre perché c'è un buon rapporto con gli americani. Senta, nel suo libro, dottor Gratteri, Oro Bianco, lei racconta come l''Ndrangheta oggi sia leader nel mercato mondiale della coca. Davvero è così? Sì, è così, perché l''Ndrangheta è una mafia molto dura, cruda e asciutta. 2-3 famiglie patriarcali formano un locale, quindi c'è il rischio di avere collaborato di giustizia è minimo. Ha tanti soldi, il problema dell'elite dell''Ndrangheta non è quello di arricchirsi, ma di giustificare la ricchezza. Ma come ha superato i cartelli colombiani che gestivano, che sono stati storicamente i padroni della coca? Ormai non esiste più il cartello di Cali o di Medellin. Ormai ci sono almeno 50 uomini dell'Andrangheta che vivono stabilmente in Sud America, che sono dei broker, il cui compito è quello di procacciare più cocaina possibile ai prezzi più bassi. Senta, ma qual è stata la specificità dell'Andrangheta nella conquista di questa leadership? Ma ci sono state delle contingenze, una forte debolezza di Cosa Nostra, perché mentre Cosa Nostra era impegnata con lo stragismo, perché Rina è l'uomo di Cosa Nostra più odiato da Cosa Nostra, e quindi lo Stato è stato costretto a interessarsi più da vicino di Cosa Nostra, l'Andrangheta, da sempre sottovalutata come una mafia stracciona col cappello in mano, ha fatto affare alla grande. Ecco, quanto vale il business della coca nel 44 mondo? Miliardi l'anno per quanto riguarda questo per quello sì, che riguarda sì, l'Andrangheta sì, sì. L'Andrangheta controlla 44 miliardi. Ecco, e quindi le 'ndrine sono più o meno tra i più grandi investitori liquidi del mondo. Non esiste nessuna attività tra legge e illecita più redditizia che sia la cocaina, e lì l'Andrangheta ha il quasi monopolio. Ecco, e investono dove? In che settore? E investono soprattutto nel mondo del terziario, grande distribuzione, alberghi, ristoranti, pizzerie. Investono da Roma in su, in tutta Europa, America del Nord e Australia. Ma se l'Andrangheta è così ricca e così potente, perché non investe in Calabria, che è poverissima? Appunto perché è poverissima, investendo darebbe subito all'occhio. E poi il popolo bisogna lasciarlo sempre col cappello in mano. Non bisogna mai darle la canna alla pesca, ma al massimo un pesce. Ma quando è che la 'Ndrangheta ha superato la mafia nel controllo del mercato della cocaina? Nella cocaina la 'Ndrangheta è stata sempre leader. Negli anni 70-80 la Cosa Nostra aveva quasi il monopolio della eroina. Attorno sì. A Palermo c'erano molte raffinerie, anche in Calabria c'erano raffinerie per conto della 'Ndrangheta, di Cosa Nostra. Poi c'è stato un cambiamento di consumi, di usi e costumi, e tutti siamo diventati cocainomani. E quindi parli per lei, io no. E quindi sì. Dico il mondo occidentale, cioè l'80% dei tossicodipendenti sono cocainomani. E quindi senta, lei ha indagato sulla strage di Duisburg in Germania, dove c'è stato un violentissimo regolamento di conti all'interno delle 'ndrine. Perché lì? Quello è stato un grave errore dell'Andrangheta che non si ripeterà mai più, penso. La strage è avvenuta il 15 agosto, già il 2-3 settembre l'elite dell'Andrangheta aveva imposto ai due blocchi di famiglia, Nirta Strangio da un lato e Pelle Volte dall'altro, gli ha imposto la pace. Ma quanto è forte l'Andrangheta in Germania? È fortissima, ci sono decine e decine di locali di 'Ndrangheta, perché lì... Ma come mai la Germania? Ma perché la Germania, perché non c'è un contrasto, perché l'Europa è di burro, chiunque può andare a penetrare. Lei non ha idea quanta 'Ndrangheta c'è in Olanda, in Spagna, in Portogallo, in Belgio, Svizzera. In Svizzera. Dottor Catena, ma lei quando ha iniziato la sua lotta personale con l'Andrangheta? Da subito? Ma io da bambino ricordo andavo a scuola con l'autostop e per strada vedevo dei morti a terra, vedevo i figli degli 'ndranghetisti davanti a scuola che si comportavano da mafiosetti, e già da allora non tolleravo, non sopportavo questo. Ecco, ma quale considera essere stato il suo successo principale a oggi nei confronti dell'Andrangheta? Quello di convincere migliaia di ragazzi a non frequentare mafiosi, perché non conveniente. E la sconfitta più bruciante? La sconfitta è il fatto di avere un sistema penale, processuale, detentivo farraginoso, e quindi lavorare a scompartimenti ridotti. Cioè io, a mani legate. Io produco il 40-50% del mio potenziale. Nella lotta alla mafia, i pentiti, l'abbiamo detto, sono stati un tassello importantissimo. Contro la 'Ndrangheta, no. Perché no? Perché la 'Ndrangheta non ha lasciato pentiti, perché la 'Ndrangheta cura molto i suoi affiliati, e c'è una regola della 'Ndrangheta che un detenuto 'ndranghetista deve essere mantenuto in carcere, i familiari devono essere mantenuti, e c'è il vincolo di sangue che impedisce di tradire lo stesso sangue. Senta, lei dice l'omertà oggi è più forte al nord che al sud, cioè? E cioè, mentre al sud l'opinione pubblica ha preso coscienza, ci sono molte associazioni antimafia, anti-usura, anti-racket, al nord si continua a dire che la mafia non c'è, si continua a pensare... Ma oramai è difficile dirlo. Guardi, non è lontano, si ricordi 3 anni fa, 4 anni fa il sindaco di Milano, certo. Si ricordi il prefetto di Milano, certo. Qui la 'Ndrangheta non c'è, dov'è, non esiste, eccetera. Senta, dottor Gratteri, lei vive sotto scorta da 25 anni. Quanti attentati ha subito? Attentati diverse volte, abbiamo sentito in intercettazioni ambientali che stavano preparando gli attentati con esplosivo, oppure dichiarazioni di collaboratore di giustizia. Tante volte? Almeno 4-5. Ma è stufo di una vita così o semplicemente la vita che ha scelto? No, non sono stufo, penso che valga la pena, l'importante è essere convinti delle idee, cioè è ovvio, ogni cosa ha un prezzo nella vita e questo è il prezzo che devo pagare per fare bene. Però lo rifarebbe? Certamente. Ma per la famiglia, per la sua famiglia non teme? Ma la mia famiglia sì, ma vivono lontano da me, cioè non li vedo di rado. Dottor Gratteri, lei parla con molta chiarezza del rapporto tra la Chiesa e l'Andrangheta. È un rapporto occasionale in Calabria o c'è di più? No, noi con Nicasa abbiamo scritto un libro, Acqua Santissima, sì, il rapporto Andrangheta-Chiesa. So che state libro... per fare una fiction anche, sì, no? Sì, con... sì, sì, sarà un film in 4 puntate sul rapporto Andrangheta-Chiesa, che è a macchio di leopardo, ma c'è stato, abbiamo avuto dei preti che hanno armati, che hanno coinvolte anche in conflitti a fuoco, dei preti che sono andati anche a testimoniare in udienza in processi di mafia. Ma ha rapporti culturali radicati? Abbastanza, cioè farsi vedere vicino a un prete, vicino a un vescovo è importante, è una forma di esternazione del potere per un andranghetista, è come quando diventa presidente una squadra di calcio. E quindi il calcio è uno strumento, è una forte forma di pubblicità, essere presidente o mandare un prestanome come presidente di una squadra di calcio è importantissimo, è un collettore formidabile di consenso. Senta, lei ha detto che l'Andrangheta è radicato ovunque a diramazione nelle strutture dello Stato, soprattutto dove? Nella pubblica amministrazione. Oggi il vero problema della lotta alle mafie, dell'Andrangheta, è che nella pubblica amministrazione ci sono figli di ndranghetisti, nipoti di ndranghetisti incensurati, che gestiscono la cosa pubblica come cosa propria, con quella cultura mafiosa. Questa è la più grande difficoltà per sradicare o per arginare le mafie. Ma ne ha parlato col ministro Madia? Non la conoscono. Senta, crede che l'azione di Cantone sia sufficiente a trasformare, per esempio, l'Expo in una manifestazione mafia free oppure no? Ma Cantone è un bravissimo magistrato, una persona intelligente e onesta. Bisognerebbe dare ancora più poteri, altrimenti la lotta è più complessa. Cioè rischia di essere un'icona? È un'icona, è già un'icona. No, un'icona lo è, ma voglio dire, di avere le mani legate. Sì, ha un potenziale Cantone che può fare molto di più. Lei ha detto che la politica antimafia di Renzi è stata molto significativa sul piano delle intenzioni. Adesso come la giudica? Adesso siamo in attesa di sapere, di capire cosa vuole fare da grande, cioè se queste riforme che noi abbiamo scritto e depositato li vuole portare avanti, si convince che sono utili, importanti, indispensabili oppure no. Cosa andrebbe fatto subito? Andrebbe del lavoro che ha fatto la mia commissione, abbiamo modificato oltre 150 articoli tra codice penale, procedura penale, ordinamento penitenziario, agenzie e beni confiscati, almeno il 50% potrebbe passare subito con un decreto legge. Intanto delle 1700 aziende sottratte alla mafia, 90% sono fallite. Perché? No, il 96% falliscono. Falliscono perché, uno, perché sono anomalie del mercato, due, perché l'agenzia dei beni confiscati così com'è non serve. E va completamente modificata. Io ci ho lavorato tantissimo con la mia commissione su questa agenzia e nel nostro progetto è completamente rivoluzionata. In che senso? E nel senso che noi non prevediamo intanto che l'agenzia dei beni confiscati non debba stare a Reggio Calabria ma a Roma, perché deve interagire con tutti i ministeri. Abbiamo pensato che a capo non deve essere né un magistrato né un prefetto, ma un manager di comprovata esperienza, perché deve gestire aziende, non è un sì, direttore di condominio. Certo. E poi sì, abbiamo pensato di accedere per concorso e non la lista dei chiamati in questa agenzia. Senta, dottor Gratteri, la magistratura, dopo aver toccato il 70% di popolarità ai tempi di Tangentopoli, oggi è al 35%. Perché? Secondo lei? Perché la magistratura correntizia è molto autoreferenziale. Ma dove hanno sbagliato i giudici? Sbagliano quando al CSM si fanno le nomine, nella stessa giornata si nominano 4-5 procuratori. Ma troppo protagonismo anche? Ma non c'entra il protagonismo, l'importante è quando si parla non dire sciocchezze. Senta, a questo proposito, cosa ha detto un magistrato molto protagonista come Ilda Boccassini? Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ha ragione, eh? Eh sì, certo, bisogna vedere a chi lo dice questo. In assoluto è giusto. In assoluto è giusto. Mm. Senta, ma nel rapporto tra stampa e magistratura c'è un pezzo della radice del male, eh? Della confusione, ma, diciamo, almeno? Sì, bisogna essere leali, perché molte volte ci si usa a vicenda, no? Sì. E quindi bisogna essere sempre corretti, onesti e leali. Se manca quello, se io penso che attraverso i giornalisti mi tolgo un sassolino dalla scarpa, ha perso la giustizia. Senta, l'aggiunto Robledo della Procura di Milano dice che non bisogna illudersi, le notizie personali continueranno a uscire dai tribunali, a finire sui giornali e televisione. Bisogna rassegnarsi, eh? No, assolutamente no. Noi abbiamo previsto nella modifica sull'intercettazione telefonica, abbiamo previsto che nell'informativa vengono inseriti solo i pezzi di intercettazioni che riguardano il corpo del capo di imputazione. Tutto ciò che riguarda la vita privata, il pettegolezzo, il gossip non va quindi, su per dirla semplice, le intercettazioni sono fondamentali per fare le inchieste, ma quello che non c'entra va stralciato. Esatto. E non è pubblicabile. Non è pubblicabile. E se viene pubblicato? E noi abbiamo previsto una pena che va da 2 a 6 anni. Abbiamo previsto questa pena per dare la possibilità, non perché il giornalista andrà in carcere, no, ma perché per avere la possibilità di intercettare il giornalista, di avere i tabulati del giornalista, quelli dei suoi amici, per incrociare i dati e capire chi è stato il pubblico ministero o la polizia giudiziaria che gli ha dato la notizia. Ecco, ma il pubblico ministero che deposita gli atti già oggi non dovrebbe togliere tutto quello che non c'entra con l'indagine? No, il giudice, il giudice dell'udienza preliminare. Sì, vabbè. Ma questo è già troppo tardi, perché siccome appena si arresta la persona, l'avvocato ha diritto ad avere copia integrale di tutti gli atti, quindi anche delle intercettazioni, già quando va nelle mani di 5, 6, 10 avvocati, ormai non si controlla più. E quindi, scusi? Il problema è risolto alla radice, nel senso che nell'informativa si devono inserire solo le intercettazioni che riguardano il corpo del capo di imputazione, il reato, il gossip, le corna non vanno inserite. Senta, avere iniziato a parlare della riforma della giustizia parlando dei 45 giorni di ferie dei magistrati è stato un errore o no da parte del governo? No, non è un problema, 30 giorni bastano. Quindi ha ragione il governo. Sì, ma non era questa la cosa urgente, certo, voglio dire, ma nel momento in cui si trovava non è un problema, 30 giorni vanno bene. Senta, ma trova giusto che anche i giudici, se sbagliano, pagano come tutti, certo, noi mortali? Certo, ma infatti noi siamo assicurati, io pago 200 euro al mese di assicurazione. Senta, ma lo sa che dall'88 a oggi solo 4 magistrati sono stati riconosciuti responsabili civilmente? È possibile? È possibile in base alla norma, però non pensi che ci sia corporativismo, perché i generi di magistrati sono molto feroci con i propri colleghi. Però su 400 cause proposte ne sono state ammesse 34 e 4 condanne. Guardi che molte volte le cause vengono fatte per intimorire, non perché si è convinti di avere ragione. Senta, ma nel vostro progetto di riforma come l'avete regolata la responsabilità? Non l'avete toccata voi? No, perché noi dovevamo interessarci solo della parte dell'antimafia. Sì. Senta, dottor Gratteri, due temi forti che il governo Renzi non ha ancora affrontato sono quelli della separazione delle carriere e l'obbligatorietà dell'azione penale. Vanno separate le carriere secondo lei? No, vanno separate le funzioni, perché non è indifferente che una persona che ha fatto per 10 anni il giudice decide di fare il pubblico ministero, è sbagliato. Ormai c'è una specializzazione incredibile, ormai un pubblico ministero se sta 3-4 anni fuori dalla prima linea non riesce e rimane fuori dai circuiti, non riesce, la tecnologia, l'informatica è troppo avanti. E allora vanno separate? No, ma non le carriere, le funzioni, perché se lei separa le carriere, poiché ci sono 2000 pubblici ministeri e 8000 giudici, il passo successivo dei 2000 pubblici ministeri è quello di metterli sotto l'esecutivo e quindi poi controllare direttamente la politica, questo non va bene. È vero, come sostengono molti, che però l'obbligatorietà dell'azione penale è all'origine di molti mali e no, di molto arbitrio. No, bisogna prima informatizzare il processo penale e veda quanto, se lei ha modo di leggere la mia riforma, la nostra riforma, vedrà si abbassano i tempi del processo anche del 60%. Sì, però e quindi l'obbligatorietà poi dell'azione penale è uno strumento discrezionale, diciamo. No, l'obbligatorietà vuol dire che io devo procedere nei confronti per tutti i reati. Lei diceva prima che era intimidatorio fare le cause, sì. Potrebbe essere intimidatorio anche l'uso dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ma la discrezionalità può essere anche interpretata come arbitrio. appunto. Dottor Gratteri, il procuratore di Torino, Spataro, ha attaccato pubblicamente i colleghi che si propongono come eroi, lamentando, dice Spataro, l'isolamento di quelli che poi invece si considerano unici a lottare per il bene contro il male. Ma penso che prima di parlare bisogna fare un po' di autocritica, di ritorno nella memoria, ritorno a quando si era giovani, ripercorre tutta la carriera prima di parlare. Ogni volta che si parla, ognuno di noi affermiamo una cosa, dobbiamo iniziare da quando eravamo giù, vedere come ci siamo comportati prima. Esatto. Ma l'isolamento non dovrebbe essere la condizione di vita naturale del giudice? Certo, io il problema è contrario. Senta, ma c'è un'invadenza eccessiva delle decisioni dei giudici, di ogni tipo di magistratura, nelle sfere della vita civile? Ma c'è un'invadenza è il fatto che la politica per decenni è stata assente, è stata a guardare, non ha avuto autorevolezza. Quindi ogni vuoto si riempie. Esatto, perfetto. Ha preso il potere che non le spetta, però, la magistratura. Anche sì, è vero. Quindi, per esempio, la decisione della Corte Costituzionale sulle pensioni, in qualche modo altera il rapporto tra magistratura e politica oppure no? No, io ritengo che la Corte Costituzionale abbia fatto una decisione giusta, ci mancherebbe altro, e saggia. Era aberrante la decisione politica. Però era una decisione politica. Politica. La Corte Costituzionale è intervenuta applicando le regole del codice, le regole del gioco. Senta, ma c'è la giurisdizione esclusiva della politica? Cioè, c'è il primato della politica o no? Perché lei prima ci deve detto essere, il ci deve essere, essere, ma è bene che torni, diciamo. Sì, d'accordo. È bene sta che tornando con Renzi? Non lo so, questo ancora è presto per dirlo. I pubblici ministeri star, ce ne sono tanti. Sì. Spesso passano alla politica. Dovrebbe essere vietato oppure no? No, una volta che si entra nella politica non ritorna a fare il magistrato. Ah, ecco, cioè vietato il ritorno, sì. Insomma. Perché? Ma perché poi vieni sempre guardato come la persona che non più come il magistrato, ma come il politico. Senta, dottor Gratteri, le faccio un'ultima domanda. Un grande giurista come Carnelutti ha detto che la civiltà di un paese si vede dalle regole che si dà nel processo penale. Lei è d'accordo? Non posso che confermare questo. D'accordo? Certamente. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Pietrangelo, questa qui mi sembra musica persiana. Sei andato in metropolitana a Teheran? Sì, sì, è musica persiana. Intanto ciao, un abbraccio a voi. Ciao. Sono arrivato perché il mio viaggio è cominciato proprio dalla metropolitana di Teheran, dalla stazione di Piazza Ferdusi verso l'aeroporto Imam Khomeini, ed ero immerso nella folla dei viaggiatori quando ho visto Mitra radunare nei vagoni gli ampi pascoli, e poi c'era Baoda che gli ha portato il profumo della saggezza, e Aura Bazza che ha acceso nei sotterranei la luce celeste. Era, caro Giovanni, caro Mario, il convoglio di Zarathustra, la cui veritiera parola ha fatto sorgere tra i sedili e i corrimano le piante generose di spezie, le foglie da cui si ricavano quegli struggenti infusi, ed era la vena segreta dell'antica Persia, il cui sangue trascina i pistilli di fiori che sono baciati dagli sguardi dei poeti. E lì Zarathustra ha chiamato dagli altoparlanti lo spirito invisibile tra gli spiriti invisibili, e nella metropolitana di Teheran, a beneficio dei pendolari, tra i grani delle melegrane, tra i sacchi colmi di cardamone, alle nuvole di zafferano, sono arrivati i cavalli, e quindi le loro dimore, e gli abbeveratoi, e le fontane, e poi la terra, e poi il cielo, e lassù col santo vento le stelle e le luci che si sostengono da sole. Insomma, io ho preso l'aereo, ed è vero, però ho sentito tra i capelli e sul volto tutti i poteri del fuoco di Zarathustra. Va bene, ti aspettiamo domani qua, Mario, Pietrangelo. Domani ti aspettiamo. E intanto bolle. Sì, anche perché dopo il fuoco di Zarathustra, secondo te io cosa prometto? Chiamo. Lui. È lui, il leader. Vale, gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi. ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Oh. Questa è guerra di trincea, sprint. Allora, la guerra di trincea, d'altronde, dopo il fuoco di Zarathustra, io non potevo che chiamare Gordon Gekko a riportarci tutti alla realtà. Che qual è? Che è bella e divertente, perché il manager di UBS, HSBC e BlackRock hanno scritto una lettera dove appoggiano le politiche macroprudenziali. Tu sai cosa sono? Cosa sono le politiche, allora, le politiche macroprudenziali? È divertente. Cioè, una FIFA nera. Esatto. Le politiche macroprudenziali sono una cosa soft, per dire che in realtà c'è qualcosa di molto hard che non va bene nel mercato finanziario. Ora, noi abbiamo dato, insomma, troppa liquidità, siamo lì, sì, sempre ci sono lì, un sacco di soldi in giro e i corsi azionari, azionari sono molto elevati, troppo per alcuni settori, e dunque questi signori dicono è bene implementare delle, come dire, delle pratiche di governance e delle decisioni che sono fatte per evitare che cosa? Le bolle, come sempre. Che scoppieranno. Scoppieranno, attenzione. Dunque, è molto interessante, perché c'è un'escalation, giusto per chiudere. Janet Yellen un po' di tempo fa dice i corsi azionari sono troppo alti. La BCE nel frattempo mette in piedi il suo quantitative easing, Draghi ovviamente lo sostiene, ma qualche giorno fa lo stesso presidente della BCE, molto saggiamente, secondo me, mette anche in guardia sui rischi di una politica monetaria ultra espansiva. Quindi attenzione, perché qualcosa sta per succedere. Non sappiamo in quale settore, non è facile scoprirlo, ma certamente i corsi azionari sono molto alti. Troppo. Va bene, aspettiamo la bolla. Aspettiamo intanto la bolla. Sara! Cari amici elettori e sdraiabilmente amiche elettrici, mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia! È ora di finirla! Sta cosa di bisognoso è una mania! Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culati a tutta la famiglia. Applauso! Qui da noi non serve lavoro, il risaputo, che se uno sa firmare due assegni a vuoto di fame non muore. Qui non servono strutture scolastiche e ospedali efficienti. Qui serve un pelo. C'è un pelo per tutti! Ecco, era Accetto la qualunque, interpretato dal grande albanese. Ma la vita ha più fantasia di noi. E a Cerignola un candidato sindaco sta addirittura offuscando la popolarità di Cetto sul web. Lui, quello vero, si chiama Gerardo Bevilacqua e il suo slogan è Io sono ribellione. Dei suoi avversari, che sono un filosofo e un avvocato, dice in dialetto, perché ha studiato poco, lo dice lui, non ho il cervello logoro come avvocati e medici. Arriva in limousine, dirige l'associazione dei cantanti neomelodici ed è il riflesso di un pezzo di paese che esiste e che in fondo cerca solo più pilu per tutti. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Catenato, sì, sì, oggi la regia è così. Vabbè. Andiamo con l'altra bolla. Va bene, dai, vai. Un pezzo meraviglioso è il Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick, senti. Moby Dick era la caccia all'animale mitico, alla balena che se cerneva i grassi. Beh, insomma, oggi in realtà la balena metaforicamente è sostituita dai cosiddetti big data, anche questi molto grandi. E è in corso, è molto interessante quello che sta accadendo in America, anche perché c'è un chiodo, c'è una notizia freschissima, perché le compagnie tech dopo Snowden, quindi il fatto che è stato svelato che l'NSA spiava tutti, hanno cominciato a crittografare, quindi a proteggere proteggere in maniera sempre più forte i dati. Potete immaginare la reazione del governo degli Stati Uniti, FBI in testa, chiedono in realtà di accedere ai dati senza avere questa rogna, diciamo, di dover decrittare. E è in corso un braccio di ferro molto forte, però è stata presentato a Obama un appello con 140 firme, sono presenti le più grandi firme dell'high tech mondiale, da Google a Apple a Yahoo, e insomma che chiedono al governo di abbandonare i piani di ipersorveglianza. Perché? Perché ledono la privacy di un sacco di gente. Qua bisogna trovare un equilibrio. Google, Apple e Yahoo che si preoccupano della privacy. Sì. C'è un filo di contraddizione o sbaglio? C'è un filo di contraddizione, sì, perché comunque loro collezionano i dati. Appunto. Però è anche vero che i piani di NSA svelati da Snowden sono pazzeschi. Cioè hanno aperto un monte di problemi su cui ancora il dibattito pubblico è scarso. Ci sono 150 settori, secondo una classificazione fatta dall'ex direttore del Guardian, che vengono investiti da questo enorme svelamento dei dati. 150 settori dello scibile, con problemi etici molto grandi, con problemi pratici ancora più grandi. Ma i teorici della rete hanno teorizzato sempre che tutto deve essere tutto trasparente, tutto per tutto, si comincia a cambiare idea. No, io non sono d'accordo. Io penso che i dati vadano protetti, la privacy sia molto importante, che ci deve essere un giusto equilibrio tra la sicurezza e i dati personali. Cioè noi, la gente non deve sapere se io e te siamo sani, malati, che cosa facciamo, frequentiamo. Cioè, ognuno ha una sfera sua personale. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, pubblicità. Mix 24. Dal 68esimo Festival di Cannes, Pascal Vicedomini. Ciao Pascal. Ecco, ieri l'altro ieri abbiamo parlato dei film. Oggi vorrei farti domande diverse. Se qualcuno dei nostri ascoltatori un giorno andasse a Cannes durante il festival, ecco, dove dovrebbe andare? Quali locali non potrebbe perdersi per incontrare attori e attrici? Ma sicuramente è la destinazione più ambita in queste ore sono le feste. E da ieri è iniziata veramente una maratona forsennata delle feste. Si è iniziata alle 9 con un party della Disney, a seguire grande serata con Robbie Williams di Chopard. Poi dalle 2 alle 5 questa notte sul yacht del miliardario americano, socio di Bill Gates, Paul Allen, dove Leonardo DiCaprio anche... Vabbè, insomma, quelle sono feste un pochino esclusive, immagino. Sì, naturalmente. Sì. Senti, ma perché a Cannes i vestiti delle attrici fanno discutere molto meno di quanto non facciano discutere alla notte degli Oscar, per esempio? Provincialismo americano oppure snobismo francese? No, assolutamente nessuna delle due cose. Secondo me a Cannes prevale il mercato, l'industria è sicuramente il fatto principale, perché se è vero appunto che si tira l'alba con grandi feste, è altrettanto vero che poi dalle 9:30 massimo 10 si lavora, tutti al lavoro. Tutte, ecco, ma qual è l'ingrediente segreto che rende Cannes diverso dagli altri festival? Ma Cannes è il massimo sul fronte professionale, del massimo sul fronte del costume e della società. Dunque Cannes è veramente irripetibile. Anche lo stesso Toronto è un grande mercato, ma Cannes diverso. È un po' più completo. Ecco, più completo. Pascal, dove c'è un evento, una manifestazione, una premiazione legata al cinema, tu ci sei sempre, sei presente. Qual è il tuo preferito? Ma sicuramente sul fronte professionale Cannes, sul fronte invece personale Ischia a luglio e Capri a Capodanno. Mi sembra una buona idea. Senti, un'ultimissima cosa, ma Tarak Ben Ammar ti ha dato qualche esclusiva, ti ha detto qualcosa di speciale? No, Tarak Ben Ammar ieri mi ha cancellato l'intervista. Perfetto. Con un messaggino un po' strano, che, come dire, aveva qualche suo impegno. Ok, ti ha dato una sola, va bene. Ci risentiamo domani. Ok, ciao Pascal. Allora, senti Mario, vorrei far scoppiare io una tua bolla. Non è possibile. Sì, possibile. No, perché tu tutte le volte che ce l'abbiamo fatta. È il titolo del libro che hai presentato, sì, al Salone di, sì, Torino. Ho ripresentato. Ripresentato. Ecco, che inizia così. Voi italiani non salite mai sul cavallo bianco. Cosa vuol dire? È che non vogliamo mai renderci conto che abbiamo grandi possibilità e non le vogliamo cogliere. Ma è davvero una caratteristica specifica nostra non salire sul cavallo della storia? Sì, eh? Sì, sì, ma mi fai, sì, un esempio di questo atteggiamento? Ma per esempio, non lo so, avevamo un Meucci che inventava il telefono, un italiano, e ce lo siamo fatto fregare da Bell, tanto per dirne una. Abbiamo avuto la fabbrica degli automobili più belle del mondo e a un certo punto anche quella l'abbiamo abbandonata. Adesso l'abbiamo ripresa un po', ma ci vorrà, insomma, ci vorrà tempo. Abbiamo inventato l'energia nucleare e poi l'abbiamo dispersa. Abbiamo inventato la plastica con Natta e anche quella l'abbiamo lasciata andare. L'industria chimica, potrei continuare all'infinito. Ce ne sono tanti. Insomma, non sappiamo prenderci sul serio. Siamo terni Peter Pan, sì, non però abbiamo fiducia in noi stessi alla fine. Sì, però quel libro è anche un ritratto di un grande paese, cioè tutte le volte che ce l'abbiamo fatta è stato un esperimento di studio. E qual è la volta più clamorosa che ce l'abbiamo fatta? Beh, dopo la guerra, il miracolo, il boom, una cosa incredibile. Quarta potenza industriale. Cioè, noi abbiamo costruito, le sei meglio di me, perché tu hai fatto la storia, siamo noi, no? Cioè, costruivamo autostrade in tempi da record, le prime centrali nucleari. Otto anni per andare da Milano. Cioè, l'autostrada del sole, le prime centrali nucleari, il piano casa di Fanfani. Vabbè, per fortuna. Ecco, però questa roba, io voglio dirlo, perché ci tengo molto, il paese ha questo DNA pazzesco di inventiva, di creatività. Io penso che l'Italia sia uno dei paesi più forti del mondo, in realtà. Dobbiamo solo esserne consapevoli e smetterla di fare le cose che vediamo. Vabbè, insomma, andiamo con la tua bolla. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those Frank. Extra cups to fill. Vai Frank! Vai Frank Sinatra. Allora, parla di caffè, perché la segnaliamo, è molto interessante, riguarda la penetrazione della musica ovunque. Tra l'altro c'è un libro buono di cui devo recuperare il titolo perché lo voglio segnalare ai nostri ascoltatori. Starbucks fa un accordo con Spotify e praticamente tu arrivi a consumare il tuo caffè e ad ascoltare la tua musica, e nasce un nuovo mestiere che è il DJ barista. Mamma mia, che meraviglia il tuo lavoro futuro, Mario. Beh, speriamo, almeno c'è un lavoro. Racconterei anche storie. Intanto la storia di oggi, che cosa ci racconta? C'è un file. Fratelli e sorelle, sono qui per dirvi che accuso l'uomo bianco. Accuso l'uomo bianco di essere il più grande assassino della terra. Accuso l'uomo bianco di essere il più feroce rapinatore della terra. L'essere nati qui non fa di voi degli americani. Io non sono americano, voi non siete americani. Siete uno dei 22 milioni di neri vittime dell'America. Marina, dopo il giornale radio, qual è la storia che ci racconti, che ha questo incipit così drammatico? Era il celebre film, forse qualcuno l'ha riconosciuto, interpretato da Denzel Washington, Malcolm X. Ecco, oggi raccontiamo la storia di un uomo che in brevissimo tempo è diventato un'icona della lotta dei diritti civili. È una storia però controversa, che intreccia apartheid e religione nell'America degli anni 50. E alla fine c'è un'intervista? Sì, un'intervista con Yash Gavronsky, che ha scritto un libro nel quale racconta, che ha intervistato Malcolm X e ne parla nel suo libro. Bene, prima della pubblicità, ricordati di me, di Antonello Venditti, che salutiamo perché a breve sarà nostro ospite per il Fatto. Beh, un grande, dai. Vai.